Architetto Mularoni, vogliamo presentare ai nostri ascoltatori il prodotto Thermatile che Del Conca presenta al MADE. Sì, è una nuova linea di Del Conca, è un sistema di riscaldamento radiante fatto con la fibra di carbonio, un sottilissimo filamento che percorso dall'energia elettrica si scalda e quindi scalda il pavimento oppure la parete, ed è un complemento dell'offerta di Del Conca perché si sposa benissimo con la fase di posa del pavimento. Infatti è talmente sottile che viene generalmente posato nello strato di colla sottostante alle piastrelle. Questo significa che non ci sarà più bisogno di termosifoni, caldaie, impianti a gas, ma basterà stendere questo sottile filamento di carbonio di sotto del pavimento. Esatto. O sui muri. Esatto. Per il riscaldamento della casa, soprattutto a parete, ma anche nella versione soprattutto a pavimento, ma anche nella versione a parete, è possibile riscaldare ed eliminare tutto quello che è l'impiantistica tradizionale di radiatori, tubi d'acqua, caldaia e tutte le manutenzioni e i problemi che ne conseguono, avere tubi d'acqua, quindi possibili perdite, ripeto, manutenzioni e l'ingombro di radiatori, oltre al fatto che il sistema di riscaldamento radiante è decisamente più confortevole. Lo spessore sottilissimo di Thermatile permette l'installazione anche in fase di ristrutturazione e abbinato a un pavimento con piastrelle sottili, in poco più di un centimetro si riesce ad avere un nuovo impianto di riscaldamento e un nuovo pavimento installato sopra quello precedente, senza dover rimuovere faticosamente il vecchio pavimento e il massetto preesistente. Che tipo di risparmio c'è per chi utilizza questo sistema nella propria abitazione? Beh, senz'altro un risparmio economico, appunto perché si evitano tutte quelle che sono le manutenzioni, l'ammortamento della caldaia, la sostituzione della caldaia dopo alcuni anni, perché appunto Thermatile diventa parte integrante del sistema dell'impianto elettrico, che quindi non ha scadenza. La fibra di carbonio conserva le sue proprietà per sempre e quindi, ripeto, non ha nessuna scadenza. Non ha bisogno di essere lasciato al minimo perché non ci sono flussi che potrebbero ghiacciare durante l'inverno, anche in case che sono utilizzate saltuariamente. E il vantaggio è poi soprattutto in case che sono molto isolate, per cui classe A o classe B, di poter installare una potenza di riscaldamento pari a quella necessaria per riscaldare la casa, ovvero un risparmio economico senz'altro in fase di installazione dell'impianto.